Sigmund Freud, nato nel 1856 e morto nel 1939, il padre della psicoanalisi. Non tutti sanno che il lapsus freudiano è legato al paesino di Trafoi. Anche andando su internet e facendo delle ricerche, mettendo su Google o su qualsiasi motore di ricerca lapsus freudiano, esce fuori sempre Trafoi, ma quasi sempre come The City of Trafoi, perché è conosciuto da tutti gli psicoanalisti del mondo come il posto in cui Freud ha scoperto il lapsus, però non sanno che Trafoi è un piccolo paesino e pensano che sia una città. Dunque, Freud era in viaggio e stava semplicemente conversando. Non riusciva a ricordarsi il nome di un famoso pittore, anche se ce l'aveva sulla punta della lingua. Si sforza ma non lo ricorda e alla fine pronuncia il nome dell'artista Boltraffio, anche se sa che non è il nome giusto. Sa che ha sbagliato e allora inizia a chiedersi perché non riesco a ricordarmi il nome dell'artista, perché ricordo Boltraffio. Prima di parlare di arte, insieme ad un suo amico e conoscenti, il discorso verteva su morte e sessualità. Freud è molto scosso dalla morte di un suo paziente. È ancora sotto shock perché aveva saputo di recente che un suo paziente a cui era molto legato si era suicidato e soffriva di patologie legate comunque a nevrosi legate alla sessualità. E ha saputo che il suo paziente si era suicidato mentre Freud soggiornava a Trafoi. Quindi il suicidio del suo paziente era un pensiero che lui cercava con tutta inconsciamente di rimuovere. E quindi si è ricordato il nome sbagliato che è Boltraffio, che per assonanza, come vedete, Trafoi e Boltraffio sono molto simili perché non riusciva del tutto a rimuoverlo. Quindi è uno scherzo della mente perché non gli veniva un nome giusto e in ogni caso era talmente tanto scosso che però gli è venuto Boltraffio, che aveva a che fare con Trafoi e con la morte di questo suo paziente. Qui la nostra vita parte infatti a Trafoi. Freud soggiornò più volte lì nel Grand Hotel, che oggi purtroppo non esiste più, che è stato abbattuto già parecchi decenni fa, e si vede l'impressionante gruppo dell'Ortles. Se si parla con la gente del posto, dicono che il ghiacciaio ancora pochi anni fa scendeva molto molto di più. Adesso è salito di tanto ormai, purtroppo. E ci troviamo proprio nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, ai piedi dell'Ortles, come ho detto già prima. Intorno al Novecento, Trafoi, infatti, come Dobbiaco, come Passo Carezza, erano abiti luoghi di villeggiatura dell'impero austro-ungarico. Mi devo avvicinare sempre di più. Adesso facciamo con il telecomando umano, dovrebbe funzionare. E dove oggi c'è il campeggio, allora sorgeva il Grand Hotel, che purtroppo è stato demolito già tempo fa. Prego. Questa è la cartolina dell'epoca, questo appunto è il Grand Hotel dove soggiornava Freud e qua giù c'era una centralina elettrica che serviva all'albergo. Con la passeggiata che noi facciamo sulle tracce di Freud, passiamo lungo questo torrentello che poi attraversiamo e si vedono ancora i resti della centralina elettrica, mentre come ha detto Stefan prima, l'albergo non c'è più, c'è un moderno campeggio. Adesso funziona, proviamo. No, no, no. Adesso ci stiamo dirigendo verso tre fontane che ci sono tre cascate che adesso poi vedremo, e sotto i piedi c'è un piccolo santuario dei tre fontane, molto conosciuto in Val Venosta. E la cosa suggestiva di questa gita è che si passa dietro alla cascata, che soprattutto non è sempre così. Di solito è più forte. D'inverno poi si ferma del tutto perché si gela certamente in quota l'acqua, e d'estate scende tanta acqua. Lì eravamo in autunno e in autunno già c'era meno acqua. No, non funziona, grazie. E questa è una vista da dietro la cortina d'acqua. Prego. Questo è il santuario di tre fontane che dicevo prima. Questo invece è il Ponte dell'Orso, dove passiamo tornando verso Trafoi, che c'è una graziosa storia che si racconta lì in valle. Praticamente la gente del posto stava cacciando un orso, erano convinti di averlo intrappolato, di averlo mandato in un posto senza via di fuga. Invece l'orso si è trovato un piccolo ponticello naturale sul quale è riuscito a scappare dai uomini. Questo luogo ancora oggi si chiama Perenbrück. Noi passiamo su un vero ponte di legno. Grazie. Arriviamo al nostro ultimo personaggio della presentazione di oggi, che è Theodor Christo Mannus, nato nel 1854 e morto nel 1911, che può essere considerato il pioniere del turismo. È un personaggio molto, molto affascinante, anche perché non è ricordato solo come pioniere del turismo, ma anche per la sua passione per le donne. Si racconta anche che lui era iscritto a medicina, ma in seguito a un duello fatto per motivi sentimentali è costretto a cambiare e poi diventerà avvocato laureandosi in giurisprudenza. La gita che noi proponiamo per Christo Mannus porta al monumento di Christo Mannus. Siamo sul Catinaccio, che tutti conosciamo, però ci spostiamo proprio nel cuore di questa montagna. Grazie. Christo Mannus è ricordato per aver fatto costruire la strada delle Dolomiti, che è stata realizzata tra il 1895 e il 1909 e che da Bolzano porta a Cortina e poi a Dubiaco. Questa è una foto tratta da un libro scritto da Christo Mannus, perché non era soltanto un imprenditore, era anche in qualche modo uno scrittore. Lui cercava in tutti i modi a far parlare, a far conoscere l'Alto Adige, e ha scritto anche un libro dove c'erano anche diverse raffigurazioni suggestive, come per esempio la gola in Valdega, che ancora oggi è molto suggestiva. Questa è la gita che dicevo. Partiamo dal rifugio Paolina, che chi va a sciare conosce. Si sale in seggiovia e poi da lì si parte a piedi. La gita comprende un piccolissimo tratto con una ferrata, che però non richiede attrezzature e niente, è assolutamente non pericoloso. Dal passo Vaiolon poi si scende sull'altro lato, sul lato della Val di Fassa, per dire, del Catinaccio, si scende poi verso il rifugio Roda del Vail. Qui vediamo in basso, lì dietro sulla forcella, vediamo rifugio, e arriviamo lungo questo sentiero. Grazie. E questo è il famoso monumento che si vede da tanti posti, anche dal latte, ma si vede questa aquila. Non tutti sanno cosa simboleggia questa aquila. Simboleggia la volontà e la lungimiranza di Christo Mannus. E questo è un ritratto sempre vicino al monumento lì. Grazie. Qui siamo tornati al rifugio Paolina. Chi vuole scende a piedi lungo i prati, lungo la pista da sci, se no gli altri possono anche comodamente scendere in seggiovia. Nell'agosto del 1897 Christo Mannus incontra Sissi, che è stato un po' dappertutto in Alto Adige, che appunto soggiornava al Grand Hotel di Carezza, che era costruito dalla società a cui Christo Mannus faceva capo. non solo Sissi ha alloggiato al Grand Hotel Carezza, ma anche Freud, lo scrittore Karl May, anche lo scrittore Schnitzler, Agatha Christie, Winston Churchill, Leni Riefenstahl e Louis Trenker. Questa è un'immagine dell'epoca, di appunto gli ospiti che scendevano dalle carrozze per soggiornare al Grand Hotel. E invece con questa immagine con cui possiamo concludere la nostra presentazione c'è il Grand Hotel di Carezza oggi, che è un residence. Grazie per avermi invitato. Questa guida è particolarmente piacevole perché abbina la bellezza dei posti ai personaggi famosi, allora anche chi non fa grandi escursioni ricordando questi personaggi si sente, diciamo, attirato, immagina, ricorda o è indotto a leggere qualcosa. Io però vi chiedo, i grandi personaggi perché sono venuti qui? Ritorniamo indietro di parecchio nel tempo. Allora, mi meraviglio per esempio che non so, che Mahler volesse venire a Dobbiaco o che altri volessero venire in questi posti relativamente, immagino allora, difficili da raggiungere, piuttosto scomodi. Ecco, mi chiedo il perché. Diciamo che il turismo comunque nella zona della Schwarice di oggi era già abbastanza ben sviluppato. Poi io sono nato e cresciuto a Vienna e so come il tempo d'inverno al nord delle Alpi. Perciò, per tutti quelli che vivono al nord delle Alpi, oltrepassare il Brennero, dove ci sono 300 giorni di sole all'anno, è proprio una boccata d'aria. Sì, comunque andavano quasi tutti, Mahler o qui, in centri turistici, che già 100 anni fa erano centri turistici sviluppati con strutture alberghiere anche di un certo appunto livello. Molto notevoli, ecco, che significa che erano anche frequentati per periodi piuttosto lunghi nell'anno per giustificare un investimento. Periodi più lunghi con strutture alberghiere di un alto livello. Quindi una tradizione che possiamo fare iniziare a metà dell'Ottocento, all'inizio dell'Ottocento, esatto. Sì, sicuramente, metà diciamo, sicuramente, soprattutto con la costruzione delle strade, perciò Christo Magnus viene spesso un po' sottovalutato, ma se Christo Magnus non avesse costruito per esempio la strada delle Dolomiti, che porta da Bolzano a Cortina e poi fino a Dobbiaco, tutti questi centri non si sarebbero sviluppati in questo modo, perché certamente chi arriva vuole raggiungere, come ha detto lei all'inizio, vuole raggiungere comodamente il luogo di villeggiatura. Milano invece è un discorso completamente diverso, perché lì soggiornava l'imperatrice Elisabetta d'Austria e attirava quelli che oggi si chiamerebbero i VIP o quelli che volevano essere VIP. Altre domande, altri suggerimenti? Cosa forse non abbiamo detto è che nella guida abbiamo incluso anche alcune figure mitologiche, perché in qualche modo anche loro sono personaggi. Perciò abbiamo una gita sulle tracce di Re Laurino, sempre nel Catinaccio, ma nella zona Passonigra. Poi abbiamo la principessa Donatilla con una gita a San Vigilio di Mareppe. C'è proprio un sentiero tematico che è tutto sulle leggende dei Monti Pallidi, dedicato a Donatilla, e quindi è stato particolarmente adatto anche al personaggio. Poi abbiamo anche una strega e uno stregone che oggi si racconta la loro storia come una storiella ai bambini. La cosa triste è che questi personaggi sono realmente vissuti e sono finiti sul rogo solo per il fatto vittime del tempo, dei pregiudizi. Una è la Paklazot di Sarrentino, una contadina che avrebbe incontrato il diavolo vicino agli omini di Pietro di Sarrentino, l'altro è Plastica Brodo, l'Autopresser, più conosciuto con il nome di Autopresser, appunto perché riusciva, era tentato e poteva mangiare solo cibi liquidi. E si raccontava che lui avesse imparato a leggere decifrando le scritte sulle tombe dei morti. C'era la tomba, sapeva di chi era, e così, avendo imparato a leggere, aveva anche avuto la capacità di diventare un orso, di trasformarsi in un orso. Ho visto che fra gli itinerari ce n'è uno che porta gli Stoneman della Val Sarentino, che è un posto così affascinante che io ogni volta che ci arrivo resto lì a guardare. Quanto siete riusciti a saperne di più? Di quando saranno i più antichi? No, purtroppo non si sa. Allora, i tempi della Paklazot già c'erano, questo sì. Adesso la domanda è, lì la risposta probabilmente, i Stoneman e Mandoni, gli omini di Prieto, non so se li avete mai visti, sono delle colonnine fatte dei sassi che si trovano lì. Adesso ci sono centinaia, perché ogni turista si fa il suo omino di pietre. Esistevano già 400 anni fa. La domanda e la risposta non c'è. La domanda è, perché chi ha fatto il primo è un luogo di culto? C'erano veramente le streghe, diavolo? Oppure solo c'erano i contadini che... Per segnare o per noia, che sì. Erano lì, c'era il legge... La notizia più antica è di 400 anni. Sì, ai tempi della Paklazot, nel verbale del processo della Paklazot, sì, già risultano gli omini di pietra. Bene, se non ci sono altre domande, vi consiglio vivamente di provare un due gite. E di farci sapere. Sì, grazie. E di lanciare da Milano, no?